来来来来来来来来来来来来来来来来 rubano i miei freni inibitori come roditori che rosicchiano i neuroni rapitori del mio concentrato di cervello come polpa con sto suono che mi pompa arcobaleni colorati e sgonfia i miei pensieri allucinati allucinanti queste luci colorate nella piazza sembrano mine vaganti coloranti dentro dolci alimenti scaffali spenti e fame chimica nei denti mischia gli elementi fiori che assumi nei funghi con le tue mani ti allunghi sveli sentieri più furbi e luri di tunnel più lunghi ti dono un fiore ci coltivi la passione per ogni singolo faccio che muore per ogni forte visione per una grande ambizione anche se è solo illusione resta per sempre un cordone pronta l'impiccagione riprendo fiato dalla bocca di un cannone sparo bolle di sapone attento se il fumo sale sei lento ma non ti aspetto sono nei fiori del male per ripassare il tormento ancestrale adolescenziale cazzo quanto fa male pensare al vecchio presente pensare a tutto ma niente goditi il viaggio demente siamo folli non ti rendi conto liberi di essere pedine sullo sfondo di un pittore moribondo esalo l'ultimo respiro sono fatto come un ghiro, resto zitto e ti ammiro un delirio, nuvole bianche che aspiro. Fiori, fiori, fiori, fiori ancora, fiori, fiori, fiori, lai, lai. Fiori, i prati vasti dei suppositori, suppongo che supportino più a fondo le opinioni, da mondo di oppressioni, di inutili pressioni, cerchiamo adattatori tra fenomeni e fattori, fiori per chi porta rancori, i troppi malumori cancellati già a priori, dolori che accantoni, mille modi sciogli i nodi, regioni che abbandoni senza inutili complicazioni, fiori di tutte le stagioni, che odorino di odori buoni per i miei polmoni, ne sorgano in simbiosi ed accatasti non nevrosi, i soli ad arte sfoghi quando sfoli con i toni più nervosi, signore e signori non sono pericolosi, ci sono cose peggiori come le guerre là fuori, fra dittature e intenzioni dettate dai dittatori, l'inquinamento nei poli, case di forza maggiore, ancora ruoli nascosti per chi ignori, quanti favori fanno di salute e guarigioni, non farne paragoni ed antibiotici e dottori, la cosa è naturale tipo novi e scopi nobili che sfiori, studiosi e studiose ne hanno provati i valori, macchine zero emissioni, vettori in certi settori, eliminiamo cessioni, proficue per gli esattori, ripercussioni, successioni, devote a rompere i coglioni. Fiori, fiori, fiori, fiori, acqua sporca, cielo giallo, prato rosso.